nessuno, non sarà mai niente crederci. Se si punta si va sulla gente, mi suona la vita a parlare del dispaccia col mondo attorno in questa notte di fine secolo. Lai la la, lai la la la la, un mondo che non hai scelto. Lai la la, lai la la la la, il suono però, il suono però, il suono sì, il suono però, il suono però, il suono c'è ancora bomba per noi. Buon compleanno Elvis, guarda che sogno che avrei, mi passi le scarpe che qua c'è ancora posso per noi. Non ci rompete il tempo mai. Di la verità, cosa c'è lì sotto? Di la verità, cosa porti dentro? Cosa porti con te? Di la verità, cosa tieni stretto? Cosa c'è, cosa c'è? Di la verità, ti basta tutto questo? Siamo pronti per non cambiare, al di là di questa ragione, pronti per un bibabba nulla, questo giro di fine secolo.